24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Primavera 1951. Il Parlamento iraniano, sulla spinta dei movimenti patriottici, vota la nazionalizzazione delle risorse petrolifere. La crisi petrolifera iraniana arriva in America. Il primo ministro Mossadegh è giunto a New York per sostenere la sua causa davanti alle Nazioni Unite. Gli americani mentivano. Hanno mentito a Mossadegh in occasione della sua visita a Washington. Hanno mentito quando si sono mostrati accondiscendenti con lui. Hanno mentito quando hanno detto che avrebbero trovato una soluzione politica. Certo che volevano trovare una soluzione, ma esclusivamente ai loro interessi. Gli Stati Uniti non hanno compreso affatto fino a che punto era offensivo per il popolo iraniano riportare al potere lo Shah. E questo ha avvelenato i rapporti per i successivi 25 anni. La storia del programma nucleare iraniano comincia quindi da lontano. Negli anni 50, sotto la presidenza Eisenhower, l'Iran viene ammesso al programma Atomi per la pace, mentre Washington fornisce tecnologia nucleare. Teheran aderisce al patto di Baghdad insieme ad Iraq, Turchia e Pakistan, un accordo di difesa reciproca in funzione anticomunista. Il programma Atomi per la pace è strategico. Ponendo l'Iran al centro del patto di Baghdad, l'America intende accerchiare l'Unione Sovietica. Lo Shah, che vorrebbe essere considerato un monarca illuminato, appare invece un dittatore da terzo mondo. Ma la macchina del terrore necessaria a sostenere il suo regno finisce per preoccupare anche il suo protettore. La sua idea era di importare la tecnologia nucleare in Iran. Il programma nucleare iraniano è stato realizzato in collaborazione con gli americani, poi con i francesi. Mentre Mosca e Washington continuano la loro guerra fredda, lo Shah non capisce che il mondo è cambiato. In Iran, come altrove in Medio Oriente, la rivoluzione ormai ha un carattere decisamente religioso. Lo abbiamo già detto e lo ripeteremo fino all'infinito. L'Iran, la grande nazione, come qualsiasi altro paese, ha assolutamente il diritto di disporre di tutte le tecnologie moderne a disposizione e di sfruttarle al servizio del paese. Ecco, professor Sergio Romano, buongiorno, editorialista del Corriere della Sera, storico, ex ambasciatore. Dunque, è un rapporto che viene da lontano, quello tra l'Iran e gli Stati Uniti sul nucleare. Oggi è l'ultimo giorno per trovare l'accordo. Ce la faranno, secondo lei? Ma credo che il tentativo e il desiderio di Obama siano evidenti e lo sforzo verrà certamente fatto. Tenga presente tuttavia che l'accordo che potrebbe essere raggiunto oggi è soltanto un accordo di principio, una specie di grande cornice all'interno della quale bisognerà poi fare il resto. Riempire i contenuti e questo dovrà essere fatto entro il mese di giugno. Quindi siamo a una tappa, la tappa importante perché naturalmente era stato fissato un calendario, era stato preso un impegno, fatto una promessa, ma non è soltanto una tappa, ecco, di questo bisogna essere consapevoli. Professor Romano, nel frattempo però Netanyahu dice fermatevi, ma quali equilibri potrebbe cambiare questo accordo? Netanyahu dice fermatevi naturalmente perché ha un desiderio e anche la convenienza a mantenere il monopolio dell'arma nucleare nella regione. Non dimentichiamo che l'arma nucleare nelle mani di Israele è per certi aspetti uno dei motivi che vengono invocati a Teheran per rivendicare quantomeno il diritto di arricchirlo l'uranio a casa proprio. Loro hanno sempre sostenuto che gli obiettivi erano pacifici, addirittura l'hanno sostenuto con degli argomenti religiosi perché hanno detto che il Corano non lo consentirebbe, ma certamente desiderano l'indipendenza nucleare e questo preoccupa Israele perché vorrebbe essere la sola ad averla. Ma perché Netanyahu pensa che Israele, teme che Israele venga tagliata fuori anche dai rapporti tra America e Medio Oriente per via della bomba? No, non credo che possa immaginarlo, perché dopo tutto esiste negli Stati Uniti non soltanto una straordinaria lobby filo-israeliana, ma anche la convinzione che per ragioni di interesse, per ragioni politiche, di sicurezza, il rapporto con Israele dovrà continuamente essere importante per gli Stati Uniti. Professore, eliminare le sanzioni all'Iran imposte da USA e ONU sarebbe troppo rischioso, secondo lei? Ma io credo che sia la sola cosa che meriti di essere fatta con un ragionamento di medio-lungo periodo. Il paese è stato straordinariamente impoverito dalle sanzioni e le sanzioni naturalmente hanno certamente creato dei problemi al governo, ma anche hanno impedito che il paese crescesse e che crescendo il paese creasse quella media borghesia che in un certo senso potrebbe essere in qualche modo necessaria per il cambiamento, certo, del regime. Badi che la parola cambiamento del regime è impronunciabile in questo momento e in questa situazione. Naturale. Ecco, però è questo che è l'obiettivo, in qualche modo dovremmo cercare di perseguire. Ecco, professor Romano, al tavolo delle trattative c'è anche la Russia, che ha gli accordi per costruire reattori nucleari nella centrale di Bushehr in India, in Iran. Che ruolo sta giocando Mosca in questa trattativa? Qual è il ruolo di Mosca? Si è sempre in qualche modo distinta per un atteggiamento in parte diverso, perché naturalmente l'Iran è un paese vicino, un paese con cui ha interesse ad avere rapporti economici e non soltanto. Tenga tuttavia presente che anche la Russia in un certo senso si trova in questo momento nel campo di quelli che fanno delle pressioni sull'Iran, perché vorrebbe arricchire l'uranio, sì, infatti vorrebbe essere a casa propria, esatto, e anche Teheran vorrebbe, no, che fosse la Russia a tenere i depositi dell'uranio arricchito. L'America accetta, può accettare una cosa del genere? Per la verità, su questo punto, sulla volontà dell'Iran di accettare il deposito di uranio arricchito in Russia, qualche dubbio nel corso degli ultimi giorni c'è stato. Sembrava che gli iraniani ci stessero ripensando e lo considerassero una perdita intollerabile di sovranità. Ma, professor Romano, secondo lei la Russia è un partner affidabile oggi anche per Israele? Vede, questa è una domanda difficile, perché la fa una persona che ha sempre creduto nell'affidabilità della Russia. Lo so che la Russia ha tanti difetti, che ha delle malizie, delle furbizie di cui bisogna essere consapevoli, ma la Russia nelle cose importanti è affidabile. Gli impegni che la Russia prende in un poi li mantiene. Sono quelli che poi vengono mantenuti. Senta, professor Romano, un'ultima domanda. Il candidato alla Casa Bianca ultraconservatore, Ted Cruz, ha dichiarato che il prossimo presidente degli Stati Uniti non avrà altra scelta che attaccare militarmente l'Iran per impedirgli l'atomica. Ecco, vabbè, è campagna elettorale, però l'America in qualche modo ha sempre, ogni presidente che parte lascia in eredità una guerra o un'ipotesi di guerra a quello che arriva. Potrebbe essere questo un caso? Cruz non sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti e naturalmente nel corso di una campagna elettorale si sente di questo il peggio. Certamente non è tuttavia solo che sostiene la necessità di agire nei confronti dell'Iran con una sorta di guerra preventiva. Soltanto qualche giorno fa John Bolton, sì, che fu rappresentante degli Stati Uniti alle Nazioni Unite per un paio d'anni, ha scritto un articolo in cui ha detto: bombardiamo l'Iran. E quindi è una linea che ha un suo radicamento forte anche negli Stati Uniti. Quanto forte non lo so, credo che rimanga, spero almeno minoritario, anche se certamente è importante, perché questi falchi, come vengono abitualmente chiamati, hanno l'accesso a una parte importante del paese e della pubblica informazione. Ci sono giornali che ne diffondono le idee continuamente. 9:18:55, Mario, c'è da essere ottimisti su questa trattativa? Ma è subito un lieve stop, ma secondo me la chiudono. Anche perché gli iraniani hanno subito riaperto, diciamo così, probabilmente anche frutto di un mezzo misunderstanding diplomatico, cioè nei lavori precedenti, sai che gli Sherpa fanno tanto, contano quasi molto. Posso dire solo una cosa, sì, sono molto importanti le cose che ha detto sulla Russia, e cioè che alla fine mantiene sempre la parola, e la Russia è un attore fondamentale anche in questa trattativa, come sapete tutti, quindi... Tu, Pietrangelo, pensi che Siamo una buona strada? Beh, è una vicenda dove ha un ruolo importantissimo appunto la Russia, però quello che ha detto Sergio Romano mi ha colpito: i falchi hanno accesso alla formazione dell'opinione pubblica, questo accade anche in Italia, e nei confronti dell'Iran c'è un atteggiamento che non esiterei a definire razzista, fortemente razzista, di pregiudizio totale nei confronti di una realtà qual è quella persiana, verso cui tutto l'Occidente nell'opinione pubblica formata dai falchi ha ormai un linguaggio, una volgarità e una sprezzante presa di posizione che definisco totalmente razzista, e questo pesa, pesa tantissimo. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Un Airbus A320 della compagnia Germanwings si è schiantato in una zona montuosa nel sud della Francia. Il copilota Andreas Lubitsa si è chiuso da solo nella cabina e ha volontariamente diretto l'aereo contro le Alpi francesi. Andreas Lubitsa era malato, instabilità psichica ricorrente, certificata da alcune note personali ritrovate dalla polizia tedesca nell'abitazione, conservate assieme a psicofarmaci e certificati medici mai presentati. Resta un orrore tutto chiuso nella fragilità della mente umana. Lubitsa aveva avuto problemi di depressione. Tutti conosceranno il mio nome e se lo ricorderanno. Sono le parole di Andreas Lubitsa a chiudere il cerchio sulla personalità disturbata del pilota della Germanwings. Ecco, la depressione. Una malattia dolorosa, difficile anche da individuare per chi ne soffre. Prima di parlare col professor Tundo di questa vicenda specifica, un celebre depresso che ha scoperto il suo disturbo solo dopo molti anni e altrettanta sofferenza è stato Vittorio Gassman, che ci ha lasciato questa testimonianza. Ascoltiamola. Bisogna vedere di non tornare a stare troppo bene, cioè di non lasciare che torni un'euforia che io ho avuto per una trentina d'anni senza interruzione, e mi credevo sanissimo e insomma mi sono divertito, ho fatto di tutto, ho speso la macchina, ma era la preparazione chiara agli affallamenti, poi alle depressioni. Poi sai, ognuno ha una depressione sua, dipende anche da lui, dalla sua storia. Io so che quella malattia è stata un pedaggio a una professione fatta a lungo e che contiene i suoi pericoli. Non so come dire, è tutto come dietro uno specchio, cessano tutte le reazioni, l'appetito, l'eros, non ne parliamo, gli interessi culturali. Il pubblico ha sempre pensato un uomo molto sicuro di sé, molto forte, non è vero niente, ho scoperto questo, di essere fragile come una mammola. E quindi bisognosa di protezione, colgo tutte le occasioni, compresa questa gradevolissima, per dire anche a tutti, insomma, proteggetemi. Ecco, proteggetevi. Professor Tundo, Antonio Tundo, psichiatra, psicoterapeuta, direttore dell'Istituto Psicopatologia di Roma. Professore, ha sentito Gassman, 30 anni per capire di essere depresso, è possibile? È possibile, ma Gassman dice una cosa: sono stato per 30 anni euforico, iperattivo, la macchina va a 200 e poi a un certo punto la macchina si ferma, subentra la depressione. E poi chi soffre di depressione in realtà se ne accorge quando la depressione arriva in maniera importante, cocente. Ecco, ma quali sono i segnali rivelatori della depressione? I primi segnali sono cominciare a dormire male, a non avere più voglia di mangiare, avere malesseri fisici. Gassman ricordava la perdita del desiderio sessuale, e poi la perdita dell'autostima, la sfiducia, la tristezza, il non riuscire a concentrarsi a lavorare. Avere poche energie, cominciare ad avere così anche dei pensieri di morte, della vita, di morte. Ecco, professor Tundo, però tornando all'esempio purtroppo drammatico, sembra che il copilota dell'aereo Lubitsa soffrisse di depressione. Lei lo crede? Premettendo che è impossibile fare una diagnosi in base a solo dati raccolti così in maniera saltuaria, è possibile. Diciamo, non credo che sia depressione, sinceramente. Ecco. Anzi, tutto questo sta facendo un cattivo servizio alle persone che soffrono della depressione tradizionale. Perché lei dice non credo che si trattasse di depressione? almeno per quella che sì, per quello che possiamo saperne, è probabilmente una cosa di ben più grave. In genere si tratta, quando si compiono questi gesti, di stati misti, cioè la persona è depressa, agitato, arrabbiato contemporaneamente. È una forma particolare, diversa, più rara, ma più grave di depressione. Senta, oppure... ma gli psicofarmaci trovati in casa del copilota sono sufficienti a dire che viveva questa situazione che lei descrive? No, non ho idea di che psicofarmaci siano, però diciamo che sicuramente il gesto compiuto non è da persona che classicamente chiama depressione, che fa fatica ad alzarsi la mattina, che non riesce ad andare in ufficio, che fa fatica a guidare o a prendere l'autobus. Ecco, ma l'assunzione di farmaci sarebbe incompatibile col volo, è vero? Sì, infatti è un gran problema, perché i piloti, come tutte le altre persone, si possono ammalare di depressione. Il fatto di prendere dei farmaci che agiscono sul sistema nervoso, che potrebbero anche rallentare i riflessi, che potrebbero... Cioè l'assunzione di psicofarmaci può scatenare effetti collaterali tali da indurre comportamenti così drammatici? No, assolutamente, non gli psicofarmaci. I farmaci... Se vuole la depressione, aiutano a tirarsi fuori dalla depressione, quindi no, assolutamente il contrario. E la mancanza di assunzione? La mancanza di assunzione fa andare avanti il disturbo e questo quindi lo fa diventare più grave e può portare a questi stati. In una cabina di pilotaggio, un luogo così stretto, è possibile non accorgersi di segnali premonitori di una tempesta simile? Diciamo che potrebbero esserci dei segnali che chi sta accanto coglie. Il problema è che probabilmente il pilota non era particolarmente attento, addestrato a cogliere questi segnali, come anche nella compagnia, come anche le persone naturalmente che frequentava, purtroppo. Ecco, ma la fidanzata ha dichiarato che si svegliava di notte gridando «stiamo precipitando». È un indizio di qualcosa, se fosse vero o no? Ma forse un indizio di un non equilibrio emotivo, quindi l'insonnia, quindi gli incubi, quindi l'agitazione, quindi una conferma che c'era qualcosa che non andava a livello psichico, di qualcosa di ben molto grave, in cui c'era sicuramente uno stato di agitazione che si accompagnava all'insonnia. Ecco, professor Tundo, però, dalle descrizioni della scatola nera, per quello che ne sappiamo, il respiro del copilota Lubitz è descritto come un respiro regolare, mentre porta 150 persone a schiantarsi contro la montagna. È possibile? Sì, perché l'ansia che in genere crea affanno, batticuori e malesseri, con la depressione, soprattutto con queste, si continua a dire, probabilmente forme estremamente gravi, ma estremamente rare depressione, è possibile che si mantenga una lucidità, perché poi nel momento in cui la persona ha preso la decisione la faccio finita in maniera così clamorosa come nel caso di cui stiamo parlando, subentra una quiete, la persona apparentemente sembra stia meglio, cioè arrivati alla consapevolezza, alla decisione, la faccio finita, subentra uno stato molto spesso di serenità interna. I depressi tendono a mascherare fino all'ultimo la loro condizione? Depressi in generale hanno molto imbarazzo a raccontare di avere questo disturbo, perché c'è uno stigma sociale, ma anche uno stigma: se dico di essere depresso significa che faccio sapere agli altri che potrei essere pericoloso, sono pazzo, e quindi tendono a rifiutare la diagnosi stessa di depressione e le cure. In questo dico che purtroppo questo caso sta facendo molti danni a tutti i milioni di depressi semplici, chiamiamoli così. Certo. Certamente però spesso tendono a negare. Un'ultima cosa, professor Tundo, l'abbiamo sentito prima, Gassman dice, chiudendo la sua testimonianza accurata, dice proteggetevi. Ecco, ma come ci si protegge? Sottoscrivo totalmente questa testimonianza e questo invito. Ci si protegge conoscendo se stessi, conoscendo i propri cambiamenti di umore e chiedendo aiuto appena si cominciano a percepire i primi segni, perché la depressione si può curare, si deve curare, e questo fare cure significa evitare mesi di malessere, interruzione dell'attività lavorativa e soprattutto non arrivare a questi estremi. Certo, ecco, ma lei, per chiudere, se l'è fatta un'idea di questo caso oppure no, per quello che se ne può sapere? Per quello che si può sapere mi sembra uno dei tanti casi, non sono rari, ne succedono uno ogni 10 giorni secondo le statistiche in Italia, di omicidio-suicidio, cioè degli stati di alterato equilibrio emotivo in cui sono contemporaneamente presenti sentimenti depressivi, ma grande rabbia, spesso anche una voglia di vendetta, un senso che nulla ormai si possa fare per ritornare all'equilibrio, una voglia di aggressività verso gli altri che ha portato purtroppo in questo caso a morte tutti coloro che erano sull'aereo. Nella vita quotidiana in genere un familiare che soccombe, quindi un numero minore, ma diciamo la dinamica è la stessa. La dinamica è la stessa, purtroppo. Mix 24. Di che cosa è fatto un cuore? E di che colore? Cosa c'entra con l'amore? Cosa che fare lui con me? Che non mi... E allora oggi, Pietrangelo? E oggi dove sei? È successo che due persone, un uomo e una donna, stamattina hanno fatto cose diverse e da lontano. Lui ha preso la macchina ed è andato in un posto di campagna e ha incontrato un cielo a forma di cuore. E osservandolo si è chiesto: ma come è fatto un cuore? Lei invece ha preso la metropolitana ed è andata nel solito posto del solito lavoro, ma ha sentito scaldarsi in petto un ricordo e le si è versata nella carne un tuffo d'amore. Puoi sentirmi? Si è chiesta. E puoi sentirmi? Gliel'ho chiesto pure il cuore a lei, che lungo le scale mobili ha preso dalla propria borsa una lettera d'addio a lui, e in quella lettera d'addio a lui lei sempre e per sempre è rimasta dentro per cantare con Lucio Dalla l'unica domanda: puoi sentirmi? Linguaggi dell'amore misteriosi, sono vai con le tue bolle, Mario. Bella questa, Castrandismo, senti. Grande voce. Allora, buon ritmo per capire se la ripresa c'è o no. Direi che c'è. Adesso non sappiamo come sarà in Italia, non si sa di quanto crescerà, se si riuscirà ad approfittare di un momento che comunque, ragazzi, sta arrivando, poi è tutto un problema nostro. Beh, la congiuntura è straordinaria, sì, favorevole. Favorevole. Noi abbiamo... Possiamo solo perderla. Appunto, possiamo solo perderla. Nel DEF sarà fissato un più 0,7%, vediamo... Ci aspetteremo qualcosa di più, insomma, un governo virtuoso. Però una cosa è certa, fusioni e acquisizioni sono a livello da record, parlo di global ovviamente. Certo, di mondo. Pensa che nei primi tre mesi del 2015 sono state superiori del 21% rispetto all'anno scorso e rappresentano dal punto di vista della partenza il record dal 2007. Il takeover più importante, quello che ha segnato la svolta, ma era stato preceduto da altri, è quello del ketchup sulle sottilette, cioè del gruppo Heinz guidato dal brasiliano di 3G sulla Kraft Food, che è il secondo gigante mondiale dopo Nestlé. Quindi un passaggio molto importante. Altri accordi sono in corso, sono stati già comunicati, farmaceutiche in particolare, costruzioni, in settore del cemento ne abbiamo dato conto qualche giorno fa, e TLC. L'Italia ovviamente c'è un caso molto interessante, che è quello di Pirelli, che il cui controllo passa ai cinesi, e la lezione è chiara per tutti: i capitali vanno dove ci sono capitali, o se la volete tradotta ancora meglio, i soldi vanno dove ci sono soldi. Quindi è una occhio, vecchia storia, occhio, da sempre occhio. Salamino, fate Francesco proprio una volta per un tema, fino alle terre di Babilonia a predicare coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati poverini. Sul sulla via dei Saracini, l'arte di Francesco, capolavori d'arte terre d'Asia. È stata inaugurata ieri a Firenze alla Galleria dell'Accademia la mostra che racconta il cammino verso Oriente di quello che Francesco Darelli, un insigne sinologo e orientalista, ha definito con Gabriele D'Annunzio il più santo degli italiani, il più italiano dei santi. A presentare il percorso con Angelo Tartuferi, un percorso dove il visitatore può ammirare anche il corno di chiamata alla preghiera che il soldano, ovvero il sultano, diede in dono a San Francesco, c'era Chiara Frugoni, massima esperta di studi sul Santo d'Assisi, e c'erano anche il decano dello Studium Biblicum francescano di Gerusalemme, il frate minore Massimo Pazzini, ed Eugenio Agliata, anche lui un frate minore, direttore della biblioteca a Gerusalemme, nonché archeologo. Come diceva il profeta Maometto, andate a cercare la saggezza fosse pure fino in Cina. I francescani, caro Giovanni, simpaticamente, con tenerezza e con dolcezza, giusto a far capire ai gesuiti di essere arrivati prima, ben prima, in Cina, il Francesco che hanno scelto nella brochure d'invito, nei manifesti e nel catalogo è un Francesco dai chiari tratti orientali, perfino cinesi. È la spiegazione al Papesatan Aleppe e di derivazione mongola. Frate Francesco partì una volta per oltre mare, fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati i poverini. Frate Francesco parlò. Insomma, i francescani hanno battuto padre Matteo Ricci, questo vuoi dire? E anche l'attuale Francesco, immagino. Appunto. Vabbè, una guerra interna. Una guerra di dolcezza, ecco. Dolcezza assoluta. Senti, Sara Tardelli, oggi cosa ci racconti? Bravo, bella. Veri! È la campagna che parte dalla Gran Bretagna come un grido di battaglia per liberarci dalle immagini perfette, ma finte, che circondano le nostre vite reali. Donne perfette, maschi bellissimi, seni antigravità e addominali così scolpiti che si può grattugiare sopra il parmigiano reggiano all'occorrenza. Insomma, hanno fatto un'indagine tra i sudditi di Sua Maestà e hanno chiesto: che cosa sareste disposti a fare per esibire un corpo perfetto? Beh, le risposte fanno riflettere. Un inglese su 5 si farebbe tagliare un dito pur di avere un fisico perfetto. Gli altri dichiarano di sottoporsi a digiuni di ogni tipo pur di assomigliare a modelle e attori di cinema e TV. Allora, usciamo da questi benedetti schemi creati dai mezzi di comunicazione e buttiamoci nella vita vera con la panza, giusto? Eccoci, Mario? Qua. Facciamo coming out. No problem. Io sto così bene con il mio quintalino. Sto così bene con il mio quintalino. Non te lo fai tagliare neanche un'unghia? No. Per avere la tartaruga? Però non ci penso minimamente. Quando vado in palestra è per dimagrire un po', poi ringrasso di nuovo. Però felicemente. Posso dire, Sara, in tutto questo che c'entra? Lei è una silfide. Lei è perfetta, è magrissima, antigravità, c'ha tutto a posto. Tutto, anche il seggiolino è iettabile. Antigravità adesso. Bolla! Vai. If you wanna go, I would not mind, but I'm not the kind of drum you play one time. Boy, if you wanna go, I would not mind. Abbiamo un po' rallentato con questo pezzo che si chiama One Time, molto carino, perché ci sono queste indiscrezioni di cui voglio dar conto, sono belle. Cioè, già si discute nei mercati di un eventuale taglio del quantitative easing. Cioè, troppi soldi? Sono troppi. Così dicono. Allora, sapete tutti che il piano è da un trilione fino al 2016, circa, sì. Quindi un anno, diciamo. 60 miliardi al mese. 60 miliardi di acquisti al mese. Però le condizioni con cui è partito il quantitative easing degli acquisti di titoli, sì, chiamiamoli così, della BCE sono diverse da quelle con cui venne fatto dalla Federal Reserve e dalla Bank of Japan. Perché lì c'erano condizioni economiche più piuttosto bruttine, direi, anzi brutte assai, mentre quello della BCE è partito in condizioni economiche migliori, quantomeno in prospettiva abbastanza a breve. Quindi insomma, stamattina ho letto un bel po' di roba interna al mercato, c'è un servizio molto interessante fatto da Reuters su questo, e dove si dice che forse potrebbero anche darci un taglietto. Ma perché? Perché troppo denaro poi è inutile, no? No, io chiedo, non lo so. È così, perché quando raggiungi i target di inflazione giusta. Ma perché sbagliano sempre le previsioni? Io sono perché l'economia non è una scienza esatta. No, anzi, ma è super spannometrica. Come diceva Carlyle, è la scienza triste, quindi. Cioè, non ci azzeccano mai. Vabbè. Ma scusa, ti ricordi tutto il dibattito? Adesso la BCE ha ancora il suo piano, di fatto, è ancora là, perché i tassi sono bassi. E dovrebbe alzare i tassi, e tutti dicono no, perché però potresti... c'è uno scontro con la Fed sull'alzare i tassi, mi sembra. Certo. E tutti dicono no, perché tutti gli hedge fund in particolare mettono in guardia, perché tengono la borsa, e dicono no, perché potrebbe esserci uno shock nel mercato. Vabbè. Per la BCE è il contrario. Insomma. In questo momento metti i soldi, ma poche idee, ma un po' confuse. Ma non troppi, perché sennò poi hai un effetto diciamo contrario. Che non sono guru proprio attendibili al 100%. No, tu la sai la battuta di Greenspan, racconta nel suo libro di memoria, rubo un secondo, una battuta che fece il compagno Brezhnev a Reagan. Reagan va là, con Brezhnev sta assistendo a una parata, e dopo sono passati tutti i missili, i razzi e così via, arriva un gruppo di straccioni, e questi straccioni sono nella parata, e uno degli addetti del Partito Comunista va da Brezhnev e gli fa: ma cosa, perché ti chiedo scusa, chi sono questi, sono invaso la manifestazione? E gli fa: no, quelli sono la nostra arma di distruzione di massa, sai chi sono? No, gli economisti. Canzoniere. Non scrivermi mai più frasi d'amore, non perdere il furore sul campo di battaglia. Io sono solo una piccola provincia che tu hai già conquistato. Non ti curare di adularmi, riprendi il tuo racconto e affianca gli episodi del tuo romanzo, darmi alcuni squarci di norme, di motti, precetti e insegnamenti. Mix 24. Altro brano molto carino, Young Folks. Bello, perché c'è questo fischiettino. Senti. Chi ti ricorda? Carino questo fischio. Carino, un po' così. Pietrangelo direbbe che pitolissimo. Bellissimo. No, c'è no, una faccia no. Tale che dice tutto. Non la vedete per Ian Fox, vabbè, insomma, giovani in fondo sono. E di Renzi dobbiamo parlare, perché abbiamo fatto un filotto sulla ripresa. Quindi dobbiamo dire che, insomma, ieri Renzi ha mostrato un grande decisionismo col suo partito. Bisogna un grande decisionismo. Mi dice che ha deciso. Beh, insomma, possiamo Mizzica. Dire, voglio dire, questo è certo. Mizzica. Vabbè, ha regolato i conti. Ha regolato i conti. Ha detto anche che, insomma, Landini e Grillo sono dei soprammobili. Da talk. Forse ha anche ragione. In realtà, signori, beh, tra... anche lui col talk non scherza, no, ci va sempre. Ecco, no, perché ti sembra al governo che... va bene, sempre, comunque sono malati gli altri. Io aspetterei a movimentare il dibattito, tanto tra un po' di minuti alle 10 arriveranno i dati Istat, che sono veramente importanti, su occupazione, prezzi al consumo e prezzi della produzione. Tutto il resto, miei cari da amici, dove dipende, da chi dipende l'Istat? Dal ministero del governo. Dal governo. Okay. No, è solo per avere un diruzzo. Ma è un'istituzione che si suppone indipendentissima. Salamino! Salamini di intercettazioni. Allora, intercettazioni che nulla hanno a che vedere con l'indagine della Procura di Napoli. Sto parlando della vicenda del sindaco di Ischia. Vengono utilizzate per infangare Massimo D'Alema. Gli appalti e le tangenti del Partito Democratico, che sarebbe il partito del decisionista di cui si diceva con Mario, in quel di Ischia non toccano l'ex leader dei DS, ma comunque, pur non indagato, viene mascariato a dovere. E lui dice: la giustizia deve scoprire reati, non sputtanare le persone. Ripeto, la giustizia deve scoprire reati, non sputtanare le persone. Siamo d'accordo. Io però ho per voi una sorpresa. No. L'ho chiamato, lui è disposto, vuole parlare. Grosso è scoop. Qui con noi. Prego. Ciao Agliace, buongiorno. Sì. Allora, se permettete, avendo le scuole alte, posso tradurre Agliace Telamonio. Buongiorno e grazie ancora. Lui dice: l'ipotesi che siano state pagate tangenti per il programma di metanizzazione dell'isola di Ischia è una vicenda rispetto alla quale Massimo D'Alema è totalmente estraneo. Grazie. Volete fare delle domande ad Agliace? Beh, Giovanni, tu? Poveretto, è rimasto male D'Alema, giustamente, perché a strascico, trascinato in una cosa nella quale non c'entra, come sta? Allora, dice, grazie, dice, e come sta? È noto a tutti che qui dove sono io, lui si riferisce a Iace Telamonio proprio al posto dove si trova attualmente, si produce vino, che peraltro è fatturato, regolarmente pagato, ben in quattro bonifici, e quindi la volgare operazione che è stata fatta lo ha turbato, adirato. Mario, tu vuoi chiedere? Sì, quale polpaccio ha preso di mira? Grazie, bellissimo. Ha detto: l'unico polpaccio che mi interessa mordere è quello dell'opinione pubblica, che cade sempre nella trappola del mascariamento. Sì. Grazie ad Agliace Telamonio che ci affida adesso una canzone di saluto. Barbera e champagne, stasera beviamo, per colpa del mio amor, per colpa del tuo amor. Marina, oggi che storia raccontiamo? E oggi siamo in tema e quindi parliamo dell'Iran. Cerchiamo di raccontare questo paese con una storia millenaria, partendo dalla rivoluzione di Mossadegh e analizzando soprattutto i rapporti con l'Occidente, con il commento di Alberto Negri. Grazie. Mario, ci volevi fare degli auguri? Sì, senti. Allora, facciamo gli auguri a Pietro Ingrao, un grande vecchio della politica, certo, italiana. Sono 100 anni, ragazzi, sono una cosa bella, a tratti incredibile, una vita lunga un secolo. Cominciano le celebrazioni, i festeggiamenti con un convegno oggi alla Camera intitolato, non a caso, Perché la politica. Bene, prima della pubblicità, Che bella gente di Simone Cristicchi. Aspetterò che mi darete addosso. Aspetterò, fermo qui al mio posto, canterò. Per esempio, certe volte preferisco i matti, perché dicono quello che pensano e non accettano ricatti e compromessi. Non si confondono con gli altri, nel bene, nel male, rimangono se stessi. Tu non accontentarti di restare in superficie, ma scava nel profondo, oltre la radice e le apparenze. Amami per quel che sono veramente, e resterò con te per sempre.